delle istituzioni, cose di questo tipo. Invece questo materiale, se opportunamente inserito, no, in un contesto storico, può diventare una fonte di documentale di prima mano. E negli anni Ottanta a Bolzano alcune persone hanno cominciato a occuparsi della propria storia e della storia delle semi rurali. Pensiamo ad esempio al libro di Giorgio Lampiai, Sognavo il tram, no? È stato forse il primo libro su quel genere. Primo. Il primo, penso, ecco. Ed è stato un successo editoriale incredibile, insomma, no? Proprio perché molti in questo libro hanno potuto identificarsi, specchiarsi, no? Cioè leggere la propria avventura della propria generazione, in fin dei conti, no? Di questo quartiere, nato per i motivi storici che tutti conosciamo, nella seconda metà degli anni 30, Rione Lux, che già era separato rispetto al Rione Vittorio, no? Che già era visto come una cosa, ma poi separatissimo dalla città. Non a caso si diceva andiamo in città, non andiamo nel centro. Lo diciamo tutt'ora. Ecco, quindi questa identità separata del quartiere Lux e Vittorio rispetto alla città di Bolzano era simile, se volete, a quella che avevano gli abitanti di Oltesarco, che erano separati dalla città di Bolzano, dall'Esarco appunto, fino alla costruzione del ponte Druso, ponte Roma, del ponte Resia, fino agli anni 30, quelli di Oltesarco potevano andare a Bolzano solamente tramite ponte Loreto, insomma, no? Per cui quando un operaio della zona delle semi rurali, nella zona industriale, doveva fare tutto il giro per andare dall'altra parte del fiume, fondamentalmente. Insomma, no? Quindi negli anni Ottanta, forse Giorgio Lampiai è stato il primo, no, a raccogliere questo tipo di esperienza, a scrivere la propria biografia, collettiva. E anche altre persone hanno cominciato poi dopo a raccogliere materiale e a scrivere queste storie. Ennio Marcelli, che avrebbe voluto presentare la scorsa settimana, i suoi lavori, come sapete, poi è stato male, per cui la sua conferenza è rinviata a data da destinarsi, e il secondo incontro di questo genere prevede appunto l'intervento di Giorgio Lampiai. Che diventa il primo. Che diventa il primo, ecco, perché chiaramente gli ultimi diventeranno i primi sulla base di quello che è. Ecco, che presenta il suo lavoro di ricerca. Una ricerca che è stata soprattutto una ricerca di carattere iconografico, una ricerca fotografica, no? Da questo punto di vista le nuove tecnologie sono interessanti, perché come dicevo anche l'altra volta, le nuove tecnologie permettono di prendere la fotografia, scansionarla, restituirla subito al proprietario, quindi vincere quell'attimo di diffidenza, di gelosia che molto spesso abbiamo quando si tratta di dare documenti personali a una persona estranea. E Giorgio Tirini ha avuto questa incredibile capacità, opportunità, forza, volontà di fare questa cosa, e l'ha avuta anche per il fatto che lui, proprio per il suo ruolo politico che ha avuto per 40 anni a Bolzano, nel suo quartiere era un punto di riferimento, non solo per quelli che la pensavano come lui, ma per tutti gli abitanti del quartiere che lo vedevano come il punto di riferimento con le istituzioni, insomma, no? Quindi Tirini era il rappresentante di quel quartiere lì, oltre che di quella parte lì, nelle istituzioni. È stato consigliere comunale per 30 anni? 31. 31 anni fino al 2000. Sì. Fino al 2000. Fino al 99, sì. Ecco, quindi dal 59 dal 58 al 90, al 99. Ecco, e questa che vi ha consigliato temporaneamente è la prima pubblicazione. Poi però dopo lui ha fatto molti altri lavori e ha poi collaborato anche altri lavori e ha dato la mano a persone, ad esempio quelli che hanno fatto la ricerca sul villaggio Lancia, no? Ridetto e cose, no. Poca roba, ecco. Sì, poca. Ecco. Perché poi dopo da cosa nasce cosa, quindi ad esempio Marco Ribetto 10 anni fa è andato in pensione, Marco Ribetto che è nato nel villaggio Lancia, voi sapete dove era, dietro il campo Lancia praticamente, è andato in pensione, ha cominciato anche lui a raccogliere fotografie, testimonianze, anche lì ha poi portato a una pubblicazione e a una serie di iniziative culturali nei quartieri. Adesso lui si è organizzato e oltre a darvi temporaneamente il libro ha anche un CD con le foto. Sì, noi seguiamo il CD o seguiamo ma mi sembra che vanno meglio col libro. È meglio seguire il libro, sfogliare il libro. Quindi sì, tu praticamente sì. Citerai questa relazione. Quando giro io, girate anche voi, insomma. Ecco, se eravamo in 20 non le potevo dare, ecco, no? Allora. Ecco. Quindi tu praticamente svolgerai questa relazione e ci dirai a che pagina siamo. Sì, certo, come nelle scuole di una volta. Ecco. Va bene, grazie. Allora, scusate, io volevo iniziare. Vabbè, una buona presentazione l'ha già fatta Giorgio, adesso vorrei soltanto integrarla con alcuni giudizi miei personali. Si parla molto delle semi rurali, ma in fin di conti eravamo uguali agli altri, perché gli abitanti delle popolari di Oltesarco avevano la nostra stessa origine e così via. Ma perché si parla delle semi rurali, a mio avviso, e anche alle semi rurali c'è molta nostalgia? Perché a Oltesarco sono rimasti ad abitare lì, sono hanno vissuto, sono morti, nati i loro figli, c'è stata una continuazione. Alle case popolari di via Torino la stessa cosa, no, praticamente chi ci abitava è andato al cimitero, scusate, no, ma è una cosa che... E praticamente non c'è stato niente di traumatico. Invece al quartiere semirurali c'è stato questo fatto traumatico, cioè il decidere che quella gente deve essere spostata. È spostata in blocco, cioè non neanche in blocco. Man mano che si liberavano degli appartamenti a Bolzano o a Gries, mia conoscente è venuta a abitare qui dietro il corpo d'armata, un altro lo mandavano a Oltrisarco, quell'altro lo mandavano in via Torino, in via Dalmazia, eccetera. Praticamente quel tessuto che si era formato durante la guerra, in quegli anni difficili, si è smembrato. No? Quindi quando la gente si trova in giro, ne parla con nostalgia, i tempi passati, perché c'è stata un'interruzione. Questa interruzione poi dopo è stata fatta anche in modo abbastanza volgare, scusate il termine, no? Perché? Perché a un certo punto, invece di decidere che le prime case venivano sgomberate, sistemata in qualche modo la gente che vi abitava, si costruiva e poi dopo questi tornavano nella zona dove abitavano e così avanti, no? Tenuto conto che sono circa triplicati gli abitanti, c'era posto per quelli che abitavano lì una volta e poi c'era un altro 60%, diciamo, di posti nuovi. Non si è fatto così. Quindi c'è stato questo smembramento, c'è stato questo fatto che praticamente ci ha così, come cittadini di seconda categoria, ci siamo sentiti per molti anni, no? Guardate, recentemente anche un mio amico ha criticato dicendo che non è giusto che solo noi ricordiamo questi fatti, il nostro quartiere di provenienza, eccetera. Vabbè, se uno non capisce il perché, la colpa non è mia. Noi è così, noi l'abbiamo subita, l'abbiamo sentita a quel modo e così forse quando non ci saremo più cambia tutto, insomma, no? Pensate soltanto che io ho organizzato, dopo aver fatto due mostre sulle semirurali e aver prodotto questo libro, ho organizzato un pranzo per gli ex abitanti delle semirurali e ci siamo trovati in 600, no? Quindi vuol dire che la questione era sentita, no? Perché passa parola. E ogni giorno la sala, beh, ci vuole una sala più grande, abbiamo cambiato, insomma, in fin di conti poi siamo andati, abbiamo fatto un pranzo in 600, ma eravamo una parte sotto e l'altra parte sopra, perché non c'era a Bolzano un ristorante, siamo andati a finire alla fiera, mi ricordo. Ecco, sostanza, ecco, volevo fare questa breve premessa per dire perché. Pensate anche che a un certo punto dove li mandiamo questi delle semirurali? Allora qualcuno più furbo degli altri, ma c'è una casa in costruzione a Laives, mandiamoli a Laives, no? A che tutti sono insorti, no? Noi abitiamo a Bolzano, perché devo andare a abitare a Laives? Allora lì c'è, se uno vuole andarci, per carità, volontario, ma decidere? No, questo no. Poi dopo, altra idea, dove adesso sta nascendo il parco delle semirurali, volevano, non so chi di voi si ricorda, volevano costruire una serie di prefabbricati per mettere lì le ultime 70-80 famiglie. Allora abbiamo fatto una grossa manifestazione dicendo di no. Insomma, cos'è che dopo 50 anni che siamo qui cominciamo da capo andare a abitare in una baracca? Ma no, è un prefabbricato. Lasciando a parte il fatto che abbiamo bene il ricordo dei poveri che sono giù dalle parti di Messina, li hanno messi col terremoto del 1905 e sono ancora là. Io sono convinto che se avessero fatto i prefabbricati, molti sarebbero ancora lì ad abitare. Ci siamo opposti, abbiamo fatto delle manifestazioni, in sostanza insomma ci è andata bene. Poi dopo il quartiere, perché il quartiere, prima di passare a fotografia, voglio dirvi questo perché poi non ve lo ripeto più, era un quartiere fatto molto in fretta. Si facevano circa una casa al giorno, hanno detto, non so se è vero, se non era una casa al giorno poco ci mancava però, questo era un po' il detto che ci raccontavano a noi. Io sono andato a abitare lì che c'erano solo le prime forse 30 case e sono arrivato lì nel novembre del 39, ero bambino, avevo 4 anni e quindi poi ho fatto tutta la guerra lì, no? Praticamente abbiamo visto il campo di concentramento, la fame, le code per le patate, cioè tutto questo qui. Pensate che non avevamo niente, al punto che anche la scuola che hanno costruito lì, la scuoletta, no? La scuoletta non aveva il telefono. era una succursale della scuola via Regina Elena, allora, la Dante Alighieri di adesso, no? E praticamente il custode partiva ogni mattina in bicicletta con gli ordini di servizio, portava su e riportava giù e così via. Non c'era un telefono. In tutto quel quartiere l'unico telefono esistente in quegli anni era quello della caserma dei Carabinieri. Ma la caserma dei Carabinieri è arrivata nel 42, quindi vuol dire che dal 39 al 42 non avevamo neanche nessun tipo di comunicazione. Quindi quando si stava male succedevano le cose più bizzarre per modo di dire. Io mi ricordo che mia mamma abbiamo dovuto portarla a visitare con Carretto. Se uno stava male, in bicicletta. Cioè, erano veramente degli anni duri. Duri per tutti e questo naturalmente ci ha segnato in modo indelebile che fin tanto che noi viviamo. Mi ricordo che quando ero andato a scuola, la maestra diceva, come si dice adesso dei zingari, no? Guarda come stanno bene. Stanno bene, sono lì solo con una maglia, però loro non si ammalano. Noi invece ci ammaliamo. Come che si usa dire adesso quando vedono un nomade, dicono guarda con tutto quello che hanno. E quindi ci trattavano. E tenete presente che non è vero che eravamo tutti di origine contadina, nel senso... io lì ho conosciuto fior fior di artigiani, fior fior di commercianti, elettricisti, falegnati, cioè c'era gente che nel Veneto, in Lombardia, eccetera, c'era poco lavoro, forse erano i migliori, no? Dicevano, vabbè, andiamo a Bolzano perché a Bolzano non c'è da fare. E infatti venivano su e trovavano lavoro, però dopo c'era questo lato negativo. Le case che non c'erano, se c'erano, erano senza i servizi. I primi negozi sono arrivati nel 41-42, dunque dopo due anni. Prima Giorgio delle Donne spiegava il fatto della bicicletta. Delle volte per andare a fare, mio padre per andare al lavoro doveva partire da via Milano, per dire, no? Doveva andare su fino a Ponte Loreto e poi andare giù per Viale Trento e andava a lavorare, perché non c'erano i ponti, poi ha costruito il Ponte Roma e così via. Ma la stessa cosa era anche per mia mamma. Mia mamma per fare la spesa faceva quel giro lì. No, per fare la spesa, perché molte volte le sigarette non si trovavano, per dire, mio padre partiva in bicicletta per trovarsi delle sigarette e forza di girare tutti i tabacchini finalmente lo trovava al tabacchino di Otisarco. Scusate, ho voluto così spiegarvi questo fatto, insomma, per capire il perché. Anche adesso abbiamo subito dei torti, no? Perché io capisco tutto quanto, ma non trovo giusto che praticamente quel quartiere che noi ci eravamo riscattati molto bene, quel quartiere ancora adesso è considerato un quartiere di seconda categoria, no? Perché c'erano dei problemi negli anni, non so se voi, anzi vi ricordate senz'altro perché non vedo ragazzini fra di voi, negli anni in cui gli alloggi venivano dati al 50% al gruppo linguistico italiano e il 50% al gruppo linguistico tedesco, in quegli anni è praticamente... Diciamo, tutti i casi sociali delle famiglie che avevano dei problemi sociali, che venivano messi nelle case popolari, venivano portati in via Europa. Poi dopo si sono accorti, ma come mai che in via Europa c'è questo nucleo, diciamo, di problemi sociali, devianze, eccetera, eccetera. E per forza, se avete preso metà che avevano dei problemi della nostra provincia e li avete portati in via Europa, è chiaro che a un certo punto sorgono questi problemi. Ecco, alcune cose, poi adesso non ne parliamo più di queste cose perché mi venne il nodo. Però il nodo mi verrà anche dopo, perché queste foto, ogni foto ha la sua storia, no? Quindi ci sono delle storie veramente tragiche che io poi ho appreso andando in giro, raccogliendo le fotografie. Quando andavi lì c'erano delle cose che avevi anche dimenticato. Ah, ma questa qua te la ricordi? Ma... Ecco, questa ad esempio è la sorella di quello che hanno portato in campo di concentramento, no? E ti ricordi, allora che me lo spiegava era un'altra, perché erano fidanzati, e uno è andato in campo di concentramento, quindi queste cose per quelli che hanno 5-10 anni più di me erano cose che per loro erano naturali. Io ero un ragazzino, quindi certe cose non è che le capivo, le ho capite dopo quando me le hanno raccontato. La foto che a me è piaciuta più di tutti, ve la faccio vedere, ma voi la trovate più avanti, è questa. Questi sono una trentina di ragazzi fotografati in via Palermo e abitavano tutti in quattro case. No? Ogni famiglia aveva 3, 4, 5, 6 figli. Queste sono... No? Scusate. Ve lo dico io, questi qui sono libri che tengo per il Museo delle Semerurali. Se volete, al circolo fotografico che c'è in via della Roggia, sapete? Ecco lì, andate lì, chiedete il libro, ne hanno ancora una quarantina di copie. Sì, non so il nome, so che è il circolo. Allora cominciamo un po' dalla prima pagina. Questo libro è nato dopo che Ennio Marcelli ha presentato il suo. Quando l'hanno presentato, la sala piena del cinema Don Bosco, lì a fianco della parrocchia, quando l'hanno presentato, lui ha fatto la sua presentazione e poi il giornalista Vincenti, non so chi di voi lo conosce, è venuto lì e mi ha detto: Tireni, Giorgio, cosa ne pensi di questo libro? E io ho dato il mio giudizio, dico: questo è un libro magnifico, però ci sono delle cose che nessuno può sapere, e allora perché non le fai tu? Allora mi hanno incastrato, ho detto: vabbè, allora mi darò da fare, e ho cominciato a raccogliere per fare questo, per mantenere un po' la parola, perché mi ero impegnato di fronte a tutta la gente, no? E ho cominciato a cercare e trovare. Questa foto, la prima con le cinque ragazze, che è quella della copertina, ad esempio questa foto l'ho vista un giorno di sfuggita su un programma della RAI e mi è piaciuta, non è che ogni fotografia sto qui a spiegarvi tutti i particolari, mi è piaciuta perché queste sei ragazze schierate così, con due uomini che camminano a fianco, guardate, oltre le ragazze come sono vestite, che vi danno un'idea dei vestiti, la moda di allora, dietro c'è la torre della sirena, vedete quella torre lì, no? Ecco, quella lì era la torre della sirena che suonava l'allarme aereo, e quella che regolava per 5 anni la nostra vita, quindi di notte, di giorno e così via. Dovendo studiare, cioè portare le foto in modo particolare di quel periodo, questa foto con la sirena la volevo e l'ho cercata perché l'avevo visto in un documentario della RAI, fin tanto che l'ho trovata. Ho trovato la figlia della signora Dal Prat, che è la prima partendo dalla sinistra, e praticamente lei mi ha detto: sì, c'è la mia mamma e me l'ha data. Poi dopo tutto il resto andiamo avanti, però guardate anche il particolare di quell'uomo che cammina, quello che col capotto, con le mani così alla gaga, però l'altro invece ha il famoso tabarro, cioè eravamo negli anni che si portava ancora il tabarro, no? E mi ricordo che mio fratello maggiore non aveva il capotto, però aveva un tabarro militare, e per andare al lavoro alla Lancia in quegli anni usava il tabarro. Poi qui ci sono delle foto che illustrano praticamente la zona industriale, guardate un po'. Siamo a pagina 9, 1936-38, no? Allora lì vedete il tracciato di quello che doveva essere la via Roma, poi dopo vedete la costruzione della via Roma con tutto il viale, lo vedete il tracciato proprio, no? La posizione è quella, anche aver trovato queste due fotografie è stato un po'... La fotografia immediatamente sotto invece è quella della costruzione delle acciaierie. Guardate come lavoravano con pala e picco, con le carriole, no? Poi dopo c'è le case popolari di via Torino in costruzione, vedete che il ponte Roma non c'è ancora, no? Forse c'è un cantiere qui che forse iniziavano la costruzione, con una lente si vede un cantiere che doveva essere l'inizio della costruzione evidentemente. Poi dopo sotto, ma lo troviamo nella pagina immediatamente seguente, l'inaugurazione delle case popolari con la venuta a Bolzano del principe Umberto. Io questo non me lo ricordo, era il 37, quindi non ero neanche a Bolzano, però ho trovato queste foto e ottenuto, anche se non erano proprio del quartiere, penso che era giusto parlare anche di altri quartieri. Ci saranno diversi punti che vado fuori dal quartiere, ci sono cose importanti e penso che sia giusto parlarne, insomma, no? Le case popolari erano state fatte in modo diverso. Secondo gli architetti avevano un po' copiato la Vienna, i quartieri operai della Vienna della fine degli anni 800, quando che c'è stata l'opera di urbanizzazione, i contadini che venivano via dalle campagne, che arrivavano a Vienna, hanno costruito queste case. Infatti dicono che assomigliano molto ai quartieri della Vienna socialdemocratica, quindi li chiamano i quartieri rossi di Vienna, no? Il nome è quello lì, ho sentito delle mostre fatte, quello, e questo seguiva un po', cioè le case col cortile in mezzo, eccetera, eccetera. Poi invece qui cominciamo con la costruzione delle semirurali. Questa è proprio una delle prime semirurali, io l'ho trovata su un giornale, no? Il quartiere, sorge il quartiere semirurali, è la stessa zona, io ho trovato una fotografia e poi dopo l'ho rafforzata con degli articoli di giornale, dei giornali del tempo, che era la provincia di Bolzano, non l'Alto Adige, che si stampava qui a Bolzano, e da qui se comincia un po' a seguire la costruzione del quartiere attraverso la cronaca dei giornali del tempo. Però oltre a questo, cosa succedeva? Succedeva che dopo la guerra di Spagna, allora il signore prima che mi parlava dei rifugi, c'è la guerra di Spagna, e con la guerra di Spagna è venuto fuori il sistema moderno di fare la guerra, cioè quello di usare gli aerei che devastavano interi quartieri. Il famoso bombardamento del Guernica, no? Allora cos'è? In tutti questi articoli, che poi dopo ci sono, bisognerebbe avere una lente e andare a leggerli, vengono fuori già dal 36, io ho trovato sfogliando, che già dal 36-37 si davano le direttive. Quando si fa una casa bisogna fare il rifugio antiaereo. E così diventava proprio, poi voi guardando il libro vi accorgete, cioè i rifugi come erano valutati e così via, perché capivano che si andava verso la guerra. Si andava verso la guerra, questo qui era una cosa che ormai era nell'aria, evidentemente. Vabbè, ecco, questo è il primo lotto delle semirurali, le prime semirurali. Voi lo vedete sotto a pagina 13, questa fotografia, queste sono le prime case semirurali che sono state abitate circa nel fine 38-39. Come l'inaugurazione l'hanno fatta quando delle famiglie lì avevano già avuto dei figli, non è che sia stata, no? Hanno cominciato a costruirle e poi dopo c'è stata l'inaugurazione. L'inaugurazione la trovate a pagina 15. A pagina 15 voi, il segretario del partito inaugura nel nome del Duce il quartiere, eccetera, eccetera, no? Ecco, l'8 ottobre del 39, io ero appena arrivato a Bolzano. Quando ho organizzato questa mostra, la prima mostra, mi si è presentato un signore, il quale mi dice, guardi, ma ha cercato, e poi mi ha detto, guardi, io abitavo le semirurali quando ero bambino, ed è questo, non so se voi vedete a pagina 15, c'è un bambino vestito da figlio della lupa, e come si chiama, il segretario del partito fascista, andando via le mette la mano sulla testa, no? Poi lui saluta romanamente e così via, no? Ecco, queste tre fotografie mi sono state date da uno di Merano, che è venuto giù apposta, mi ha detto, guardi, le do queste foto, però la prego di ritornarmele. Io ho detto, su, no? E poi mi fa, lei però non le pubblicherà, no? Dico, io le pubblico, perché è un fatto storico, perché, non si, perché dobbiamo ignorare la storia, insomma, no? E dopo, quando che le ho fatto il libro, sono andato a riportarle le foto e le ho fatto vedere che le erano state inserite, e le ho inserite anche nella seconda mostra che ho fatto, perché penso, insomma, che è un quella del segretario del partito, cioè il taglio del giornale l'avevo già messo. Naturalmente poi, quando mi sono arrivato le foto, le ho infilate dentro, penso che sia stata una cosa giusta, insomma, ecco. Già prima della guerra, prima della dichiarazione ufficiale di guerra, da noi esisteva già, eravamo alleati con la Germania, quindi eravamo considerati già in guerra, anche se non lo eravamo ancora. Di conseguenza, con l'autarchia e così via, erano già state fatte delle restrizioni per quanto riguarda il mangiare, cioè eravamo tagliati fuori dall'approvvigionamento, no? E quindi già qui si parla, eravamo prima della guerra, il prelevamento dei generi razionati nel mese di maggio, il fatto che si facevano gli orti, non c'era più benzina, allora a Bolzano qualcuno ha tirato fuori il caleste col cavallo per fare il servizio taxi. Io li ho presi dai giornali, non è che me le sono inventate, però ho avuto la pazienza di andare a sfogliarmi montagne di giornali, pagina per pagina, alla ricerca delle notizie, poi fotografarle e così via. Ecco, poi vedete, allora qui in una casa semirurale, un operaio che deve essere della Lancia, anche questa è la sua storia, deve essere della Lancia, questo qui, che allevava i conigli nel cortile. Conigli nel cortile, non nel cortile, ma io ho delle fotografie che anche in Corso Libertà, no, allevavano i conigli, le galline, perché in quei tempi anche loro avevano dei problemi, insomma, anche se noi eravamo nel quartiere più povero della città, no? E quindi questa è la fotografia, d'altra parte questa è una fotografia molto conosciuta perché fa parte di una raccolta di foto di Firenze, mi sfugge il nome adesso, Salinari di Firenze, Alinari di Firenze, ecco. Io questa io non l'ho rubata da là, rubata nel senso... No. Questo è un articolo del giornale, però il giornale la fotografia sarebbe venuta... No. Allora ho preso l'articolo e l'ho sostituito con la fotografia che ho tolto dal libro. Ma no, ma se l'ha pubblicata l'Alto Adige la colpa non è mia, no? Poi dopo tutte le altre foto, invece vedete qui Piazza Don Bosco in lavorazione, qui si stava costruendo via Palermo, via Cagliari, cioè le varie vie di Bolzano, via Belluno e dove abitavo io. E adesso vi dico un particolare, voi vedete che qui, sotto l'ultima fotografia di via Belluno c'è lì le rotaie del trenino che passava. Il signore, un certo Simonetti, che poi l'ho messo anche in fotografia, era il capo mastro della Rabbiosi, ma visto che camminavo lì in mezzo alle rotaie e così via da bambino, allora lui mi ha fatto salire sul trenino che faceva il giro delle semirurali e mi ha portato a vedere il lavoro in corso all'interno via Cagliari, cioè un po' dappertutto con questo trenino c'erano, e quando l'ho raccontato a sua figlia, che mi ha dato anche delle foto, mi ha detto: vedi, mio padre aveva una simpatia per te, ti ha portato, io non sono mai salita sul trenino. Poi dopo qui ci sono le fotografie delle prime abitanti delle semirurali, vedete, è lo stesso orto. Quando le è andato la casa, siamo a pagina 18, no? Quando è andato lo stesso orto, un paio di anni dopo, vedete la differenza, insomma, come era curato, era il problema del mangiare, no? L'approvvigionamento avveniva anche con la cura. Poi intanto è andato avanti alla Galleria del Virgolo, si stava lavorando, avete visto nelle pagine precedenti che ho messo su le prime fotografie, e intanto ci sono anche gli ordini di servizio, obbedienza e silenzio, no? E quella era una brutta foto. Comunque sulla frontale delle acerie l'aveva Folli questa foto, no? Un sindacalista delle acerie, c'era proprio la parola d'ordine: qui si lavora e non si chiacchiera, no? Firmato sotto, per dire l'ambiente qual era, insomma, ecco. E poi dopo ci ho messo un po' di malizia, vi dico la verità. C'è questa foto della provincia di Bolzano, il giornale dell'epoca. L'Italia scende in campo. In quel tempo mi ha ricordato qualcosa anche di Benigni e allora ho pensato bene di metterla dentro, insomma, ecco. Questa è stata l'entrata ufficiale, cioè il giornale che annunciava che entravamo in guerra, il 10 giugno del 1940. Parola d'ordine era: non si fa una discussione, alta strategia, qui si lavora. Io ho detto è la stessa cosa. Poi dopo qui siamo la prima casa, che adesso non so chi di voi è pratico del quartiere, dove c'è la padovana. Questa è la prima casa che ci hanno costruito, dunque siamo dovrebbe essere nel 1940, è la prima casa privata nel quartiere. dove poi hanno fatto il ristorante La Padovana, il tabacchino, i generi alimentari di Draghi. E così via. Poi questa, voi vedete, novità in Rione Dux, è la chiesa, perché noi avevamo neanche la chiesa. E allora nel 40, nell'agosto del 40, io mi ricordo che andavo lì da bambino, prima c'era il negozio del site, in una casetta semirurale. Poi dopo hanno costruito lo site, lo vedete nella fotografia sotto, no? È dalla parte opposta della strada di via Palermo, e il site è passato lì. E qui hanno fatto la chiesetta, dove c'era il camino, ha messo la campana, insomma, no? La campanella, e questa è la chiesa. Tante persone che si sono sposati, matrimoni, funerali, cioè, è parte del quartiere per molti anni. Per molti anni. E ha funzionato fino alla fine degli anni 50, mi sembra, sì. Poi vedete il Ponte Regio in costruzione, sempre tramite la cronaca dei giornali, la foto presa un po' da lontano, si vede che i primi piloni che buttavano giù, poi invece qui si vede la fusione in cemento che hanno fatto. Questa casetta c'è ancora. È un'altra dimensione, perché dopo il ponte è stato sollevato per raccordarlo con la via Resia. Vedete che la casetta risalta molto di più, ma comunque questi sono dei particolari che non hanno importanza. Queste case che si vedono sullo sfondo sono le case del genio militare, le prime case che sorgevano per far abitare gli ufficiali, i sottufficiali del genio. Io sono a pagina 22. Pagina 22. Questa era dove adesso c'è il Monumento della Vittoria, c'era anche allora, un reparto dell'UMPA, ma siete tutti anziani, penso che vi ricordate cos'era l'UMPA. L'UMPA era quel servizio antincendi, insomma, no? Che faceva il servizio antiaereo e così via. Alla sera, quando ci dimenticavamo qualche finestra aperta e si vedeva la luce, passava l'UMPA, bussava alla porta, una volta due ti avvisava e poi ti arrivava la multa, no? Intanto cominciavano a partire le classi del 22, cioè il ritaglio ho cercato di mettere insieme la protezione antiaerea che vi accennavo prima, gli orti di guerra in Rione Dux, l'inaugurazione della scuoletta, prove antiaeree, vedete, un po' ci facevano fare le prove anche a scuola e così via. Questa poi l'inaugurazione della scuola delle semirurali, la scuoletta da noi chiamata così, che era in fondo alla via Bari. Anche qui vi racconto un particolare di questa scuola. Io me lo ricordo da bambino, che avevano fatto la scuola, quindi siccome dovevamo andare a scuola alla Regina Elena, che era qui in centro, era una bella camminata, anche se non c'erano le macchine, insomma, si partiva la mattina presto e si tornava verso mezzogiorno a mangiare, oppure pomeriggio, adesso non mi ricordo bene. Mi ricordo che bisognava alzarsi presto, questo sì, che mi è rimasto impresso nella memoria. E quindi quando hanno costruito la scuola aspettavamo con ansia l'apertura. Era vicino a casa tua, era. Anche via San Quirino. No, ma io sì, vabbè, io andavo, mia sorella andava alla Rosa Maltoni, era la scuola qui, no? No, al Longon, no? Ecco, Rosa Maltoni prendeva il nome dalla nonna o dalla mamma dei Mussolini, sì. Allora voi vedete qui in questa foto si vede la nuova scuola, ma la storia di quella scuola è questa, che avevano incominciato a costruire un piano per fare 8 aule, mi sembra, o 6 aule, se non mi ricordo bene. E... ah, scusate, 23. Dove siete rimasti voi? Scusatemi. Allora, voi vedete qui, no? L'intervento degli aerei, la protezione antiaerea, ci facevano fare le prove, l'UMPA che vi ho già spiegato, intanto avevano richiamato la classe del 22, gli orti di guerra in Rione Dux, e poi sulla pagina seguente c'è quella della scuola inaugurata, da Rione Litorio alla scuola, alla città semirurale. E qui c'era la scuola, l'inaugurazione. Erano partiti per farne un piano, poi dopo stava facendo, hanno fatto i conti, hanno capito insomma che non ci stavamo tutti, no? Poi volevano mettere anche una scuola materna, insomma hanno deciso di alzarlo, fare un secondo piano. E naturalmente a quel tempo si usava molto i foratoni, no? E la, su, prima l'avevano progettata per un piano, quando sono arrivati al secondo, a un certo punto in pieno agosto, boom, è caduto giù, tavola rasa, è caduta la scuola, no? Quindi abbiamo dovuto aspettare un altro anno che le rimettessero, questa volta, la seconda volta hanno usato un po' di cemento, tanto è vero che ha resistito anche a un bombardamento, quindi sotto invece c'è la fotografia del Boccaccio in costruzione, in via Torino, no? Siamo nel 41, non sono io che lo dico, ma comunque siccome sono amico di Beppino Sfondrini, la descrizione qui è, no? Il cinema Littorio, una moderna costruzione che si deve all'iniziativa dello squadrista cavalier Giuseppe Sfondrini, eccetera, eccetera. Beh, a me interessava la fotografia perché è un ricordo, insomma, quando costruirono il primo cinema Boccaccio, perché sapete che è la terza volta che costruiscono lì, poi hanno fatto la seconda sala e poi dopo hanno buttato giù tutto un'altra volta e hanno costruito il condominio perché guadagnavano di più, ovviamente, insomma, no? Come tutte le sale, non solo a Bolzano, ma anche in molte città sono state chiuse. Ma io questa foto l'ho messa su anche perché c'è questo camioncino. Cioè, oltre che la casa costruita, c'è anche il camioncino. A me, andando avanti, poi vi accorgerete che quando c'è una macchina, un camioncino, una moto, una Vespa, qualcosa, ho sempre cercato di infilarle dentro. Qui c'è mia cognata, a pagina 24, c'è mia cognata con questa macchinetta a pedali, no? Me l'ha data e l'ho messa su. Questa è stata l'unica, no, sì, tre case semirurali bombardate, e questa era proprio vicino alla scuola ed è stata non tanto bombardata, ma è crollata la scala, no? Quindi a un certo punto hanno dovuto dare un'altra casa e andare a abitare in via Milano. Magosso, vabbè, non si ascoltano le radio straniere, c'erano multe e così via. Mio padre, che invece le ascoltava, le hanno sequestrato al tempo dei tedeschi, le hanno sequestrato la radio ed è andata bene così, va? È andata bene così. La galleria del Virgolo e poi si parte con la costruzione in Piazza Pontinia, perché Piazza Don Bosco allora si chiamava Piazza Pontinia, la costruzione della chiesa, c'è la posa della prima pietra. E poi dopo lo stabilimento dei bagni, finalmente, perché in casa era impossibile. Noi eravamo in sette, eravamo in otto col papà e la mamma, e quindi dovevamo lavarci a turno, no? Ma scaldare l'acqua per tutti quanti, insomma, scusate, è inutile che stiamo qui a raccontarcela, metteva una bella mastella di acqua calda, no? E uno alla volta dentro e fuori senza cambiare l'acqua, è inutile che stiamo qui. Quando sono andato a spiegare queste cose a una scolaresca, come? Con l'acqua sporca? Era così, era già qualcosa, insomma, no? Scusate se essendo anche nei particolari. E la chiesa che va avanti e l'inaugurazione dei bagni, mi ricordo che da quel periodo poi una volta alla settimana andavamo assieme tutti i fratelli in fila a fare il bagno, cioè i maschi, le femmine rimanevano a casa. Il? Perché te lo ricordi, nel progetto c'era, no? Hanno consumato tutti i soldi e poi non hanno mai trovato i soldi per il campanile. Però vedi, oh, quella chiesa lì è stata presentata la settimana scorsa su Repubblica come una delle migliori chiese d'Italia, no? Cioè, per i servizi che ha. Evidentemente hanno risparmiato sul campanile e hanno costruito, però c'è una serie di servizi veramente degni di questo nome, bisogna darle atto. E le famiglie numerose, sono a pagina 26, le famiglie numerose, e io qui ho una fotografia della famiglia Scudier che abitava in via Belluno, sì, siamo imparentati quindi la conoscono, alla lunga siamo imparentati, e questa foto è stata fatta vicino al campo d'aviazione, conosco le figlie così, me l'hanno data e l'ho messa su. Poi c'è la foto di Ambrosi, quello del formaggio, quello è il nipote, quello è il nipote, e me l'ha data un suo, ma non me l'ha data lui, no? Perché vabbè, questa hanno abitato le semirurali un anno, poi sono andati, erano in troppi, vedete che non ci stavano, avevano una stanza e una cucina, e quindi sono andati a abitare in un appartamento un po' più grande in via Torino. avevano questa foto, io l'ho inserita dentro, insomma, ecco. 42, siamo in guerra, tutti nei rifugi, c'è questa storia che i servizi postali venivano esercitati dalle donne, no? Perché i postini li hanno mandati al fronte, quindi le donne hanno sostituito i postini. Qui ci sono due fotografie, se non sbaglio, con le postine. Qui ne vedo una, però ci dovrebbe essere un'altra foto da qualche parte. E si raccoglievano i pacchi per i combattenti in Africa. Qui siamo ai giardini vicino al Ponte Talvera, si semina il grano negli orti di guerra. Cioè nei giardini lì vicino al corpo d'armata avevano arato e avevano messo giù le patate, il grano, io so quante patate ho mangiato e quante ne ho seminato. Poverino, c'è stato uno che mi diceva, ma perché mio padre ce l'aveva tanto con voi? Poveretto, dico, le abbiamo rubato le patate quando le aveva appena seminate, no? E non aveva neanche aspettato che... E che poi dopo abbiamo riso per anni su queste storie. Ancora qui c'è l'inaugurazione della scuola, c'è un'altra foto sull'inaugurazione della scoletta, e qui è andata via. Qui è una scuola, abitanti delle semirurali che venivano qui alla Rosa Maltoni nel 39. In questa foto c'è la... mi sfugge il nome... Comunque non ha importanza il nome di chi era, no? Comunque mi è stata data da Tomei, sì, da Tomei mi sembra. Mi ha dato questa foto che poi dopo ho visto che ce n'erano delle altre in giro, ma comunque è una bella foto che ho usato. Il clima di guerra lo respirate anche sulle pagelle, no? Una pagella scolastica, vincere, partito nazionale fascista, cioè era il clima che si respirava, eravamo in guerra d'altra parte, no? Qui adesso c'è una foto di quelle che mi fa, e vabbè, partiamo da quella sopra, il quartiere semirurali nel 42, praticamente era quasi terminato. Mancavano solo delle case giù in fondo in via Piacenza e in via Bari. Questo è il quartiere praticamente ultimato nel 42. Dopo da allora hanno solo terminato quello che non ne hanno più costruito, forse una, due nuove, ma poca roba, insomma, no? Questa è una foto invece dopo una manifestazione, una adunata alla casa del fascio in piazza Matteotti, che allora si chiamava piazza Litorio. La vedete quella foto sotto? Ecco, questa è una foto che poi dopo più avanti, fatta nel 43, il terzo bambino partendo da destra, quello che ha il cappottino con quel... Quello lì è morto 2 anni dopo e io me la son cavata per poco, no? Allora ogni volta che la vedo, poveretto, è morto molto molto giovane. Abitava in piazza Matteotti, la sua famiglia. E sotto invece c'è saluti al babbo che combatte. I fratelli Moretto, non so, abitano in via Milano al 26. Tutto sta che l'ho trovata in un cassetto, l'ho pubblicata e quando che sua zia ha visto la foto, in un bar è scoppiata a piangere perché insomma... Anche perché sono morti tutti questi fratelli, tutti giovani. Qui comincia già la vita del quartiere, insomma, no? Qui una foto di una famiglia che abitava in via Palermo, il vicolo, una donna ferma vicino all'incrocio con via Milano, via Palermo. Adesso, la famiglia, la signora Chieregato. Che suo figlio faceva il postino, ne aveva 4-5 figli, uno faceva il postino, mi ricordo. Luigi? Quello con la barbetta? Sì, ecco, questa è sua mamma o sua zia, se non mi ricordo bene, deve essere sua mamma. Un gruppo di donne fotografate fuori un giardino, alle semirurali in via Cagliari. E dopo comincia invece la parte cominciano sul giornale a pubblicare le inserzioni per gli annunci funebri, quelli che morivano in guerra. Abbiamo visto prima la foto di uno e poi adesso lo vediamo che è morto invece, no? Quindi sono tutte cose in Africa, nel fronte russo. Ecco, chi mi ha dato questa foto, poveretta, io ho ben capito, ma non sto lì a... E me l'ha data convinto che fosse stata fatta da suo padre e l'aveva assieme a 150-200 fotografie, ma stupende, sulla guerra in Russia. E invece evidentemente suo padre, poi ho capito, era l'aiutante di quel fotografo che ha fatto un sacco di foto durante la guerra, durante la ritirata, e lei le aveva tutte lì, eh? Lei era convinta che non è stato suo padre, perché questa foto la si trova in parecchi giornali ed è stata... Io però sinceramente l'ho avuta dalla figlia di Amilcare Grassi, mi ha dato questa foto e l'ho pubblicata, e invece sopra è un certo Duilio Bovo, che abitava anche le Semerurali, adesso abita qui in via Duca d'Aosta, almeno la famiglia abita da queste parti, e mi ha dato questa foto, me ne aveva dato una anche con un ascaro vestito con la lancia, quella non l'ho pubblicata perché sarebbe stato andato fuori troppo del seminato. Vedete che intanto però l'opera continua, si formavano gli operai, si facevano le gare di lavoro, c'erano queste gare che coinvolgevano centinaia di giovani che lavoravano nella zona industriale. Sono a pagina 32, e poi dopo ho recuperato delle foto di un altro reduce dall'Albania, se non sbaglio, sì, dai Balcani, che ho messo qui a fianco a quelli che sono morti, e poi dopo ho recuperato un'altra foto e l'ho messa qua di dietro, Gaetano Albertin sul fronte balcanico, anche questa è una famiglia molto conosciuta. La sorella di questo è quella che è morta sotto il camion in via Resia, schiacciata dal camion, che è stata quella che ha dato il via alle manifestazioni per spostare la strada. Era la sorella di questo, no? E qui invece abbiamo chi andava, almeno io ci andavo perché colonie e refezioni me le sono fatte tutte, quindi andavamo in via Vintola, c'erano le colonie estive, o si andava, comunque c'era un turno, lo facevamo lì.